Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Mercoledì ore 10.30 all'incirca, 10.30 del mattino naturalmente, l'orario in cui inizia Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo, registrata dal vivo, rigorosamente ufficiale, di ogni epoca e di quasi ogni genere. Città Fujiko Live Club che inizia sempre, come ho già detto, tutte le trasmissioni in pratica con una novità, e oggi abbiamo una cosa un po' particolare, perché la novità di oggi, la novità che vi propongo quest'oggi, è un extended play. Tecnicamente l'extended play è quella cosa che sta a metà fra il singolo, CD single, chiamiamolo così, che dura fra lato A, lato B e annessi e connessi all'incirca una decina di minuti, mentre il long play o il CD intero, il CD addirittura può arrivare fino a 80, il long play è una quarantina, a metà, diciamo sulla ventina, fra i 15 e il 25 minuti c'è l'extended play, che solitamente è un misto fra cose edite e cose inedite, in attesa magari di un long play ulteriore, di un long play che verrà in un secondo tempo. Quello di oggi non segue questa regola, è una cosa spot, oserei dire, ed è l'ultima pubblicazione live di una band che presumo, anzi spero, anzi sono sicuro, che non ha bisogno di nessuna presentazione. Si chiamano U2, detta all'italiano U2. Dirò solamente che loro provengono da Dublino, ma questo lo sapete sicuramente, e che sono insieme dal 1976 con la stessa formazione, anche se per un certo periodo Larry Mullen Jr., il batterista, ha dovuto lasciare la band per problemi fisici, però le ultime notizie lo danno rientrato nella band e quindi il line-up originale si è riconfermato. Loro, come dicevano, hanno pubblicato questo extended play live che si chiama Zoo TV Live in Dublin 1993 ed è già nel titolo esplicativo, malgrado il mio pessimo inglese. È stato infatti registrato a Dublino nel 1993 nel corso del tour che promuoveva Zoo TV, uno dei loro album migliori, tour che ha toccato anche Bologna con uno splendido concerto. Anzi, a dire la verità, devo dire personalmente che secondo me, per quel che mi riguarda, è stato il più bello spettacolo che io abbia mai visto. Attenzione, non ho detto concerto, ho detto spettacolo, perché è stata un'interazione vera fra musica, filmati, show, luci, è stata veramente una cosa fantastica. E questa è l'ultima pubblicazione, è una pubblicazione di agosto, l'ultima di una serie infinita più o meno di prodotti con live songs, con registrazioni live inserite. Si va da un sacco di singoli, qualche extended play, molte ristampe hanno allegato delle cose dal vivo, e questa invece è proprio un extended play. La mia domanda da ignorante quale sono è sempre la stessa: se perché pubblicare un extended play di 5 pezzi quando chiaramente è stato registrato tutto il concerto? Sono i misteri del marketing che io non riuscirò mai a capire, ma la musica è assolutamente eccezionale, perché nel 93 gli U2 erano all'apice della loro creatività, della loro carriera. Dopo sarebbe stata una continua discesa, a mio avviso. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è proprio quello che dà il titolo all'album che stavano promuovendo, si chiama Zoo Station. Loro sono U2 da Dublino, il 28 agosto del 1993. We'll be right back. Brano di apertura di quel tour, Zoo Station, il brano che ci siamo ascoltati appunto da U2, che è stato registrato a Dublino il 28 agosto 1993, in casa loro praticamente, la RDS Arena, e che è il brano di apertura anche di questo Extended Play che vi propongo quest'oggi come novità, solamente 5 pezzi, ma veramente tutti notevoli. E chiaramente gli U2, famosissimi sin dagli esordi, oserei dire, il loro primo album è assolutamente splendido, così come il secondo, come il terzo, come il quarto, come il quinto, dopo sono un po' arenati, diciamo così, sono stati da fonte di ispirazione per un sacco di ragazzi irlandesi che grazie a loro o contemporaneamente a loro hanno imbracciato uno strumento o sono seduti dietro una batteria o dietro una tastiera per formare delle band. E in questa prima parte della trasmissione ce ne ascolteremo alcune più o meno conosciute, più o meno note, più o meno esistenti. Cominciamo subito però dalla quella forse più famosa che ci ascolteremo in questa prima parte, al di là degli U2, perché adesso è sulla bocca di tutti, i critici li osannano a manetta, sembra che sono la band del momento. Avrete già capito, sto parlando dei Fontaines DC, che sono di Dublino e si sono formati nel 2014. Li abbiamo visti anche qui a Bologna alcuni anni fa, il primo concerto credo post-Covid, ma comunque se non era il primo era uno dei primi. E fra l'altro il nome è una cosa un po' particolare, contrariamente a quanti molti credono, non è la fontana. Fontaine è uno dei protagonisti, uno delle figure del film Il Padrino, e loro hanno preso il nome appunto da questo personaggio, però dopo a un certo punto hanno scoperto che c'era già una band negli Stati Uniti che si chiamava con questo nome e quindi hanno aggiunto DC, che sta per Dublin City, e quindi sono diventati Fontaines DC. Hanno fatto tante belle cose, e quelle che ci andiamo ad ascoltare è un po' particolare perché è un album dal vivo senza pubblico. Loro l'hanno registrato in un carcere, in un ex carcere che ora è un museo, che si chiama Kilmanham Gaol più o meno, ed era una prigione in cui furono rinchiusi i detenuti politici nel corso dei Troubles, che tutti voi saprete meglio di me di cosa si tratta. I vari problemi che ci sono stati a livello Irlanda del Nord, eccetera eccetera eccetera. Adesso, come dicevo, è un museo, e loro nel 14 luglio del 2020 hanno registrato questo concerto senza pubblico, concerto che poi è stato pubblicato come long play in occasione del Record Store Day del 2021. Ci andiamo ad ascoltare il primo brano, è la title track del loro secondo album, si chiama A Hero's Death, loro sono Fontaines DC. Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. And go out of your way for others. Sit beneath a light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Sink as far down as should be pulled up. Happiness really ain't all about love. That's what I mean, I'll be your deep down self. I don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. Now believe me, friend, everyone we're here. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Never borrow them from someone else. Buy yourself a flower, every hundred bearer. Throw your hair down from your lonely tower. And if you find yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Never let a clock tell you what you got time for. It only goes around, goes around, goes around. Take your family name for your own great sins. Cause each day is where it all begins. And don't give up too quick. You only get one line, you better make it stick. If we give ourselves every breath, there are all in the runner for a hero's death. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life just ain't always empty. Everybody dancing. Over, I'm going. is everybody in the mood for dancing then? This party's over, I'm going home. Molti di voi conosceranno questo brano nella versione italiana di Vasco Rossi, si chiama Gli Spari Sopra, se ricordo bene, ma la versione originale è questa, si chiama Celebrate, loro sono gli Emotional Fish, una band che viene da Dublino, è attiva dal 1988 con diverse interruzioni. Hanno fatto un paio di album live e alcuni singoli con canzoni dal vivo. Questo è un extended play, per cui rientra nella categoria della novità che vi propongo quest'oggi, l'extended play degli U2. Si chiama Celebration Live EP. È stato registrato al Pink Pop Festival in Olanda il 19 maggio del 1991. Il brano, lo ripeto, si chiama Celebrate e loro invece si chiamano An Emotional Fish. Filthy slaps, need home or exchange. Cutting out around and back, loophole or a nose. Get me out, oh, get me out. There's a time to get to breathe. Oh, get me out, oh, get me out. City blues, scumbag city blues, scumbag city blues. Just another island was born to kill him from below. No lie, you'll find it's the first time I should have pushed you from the boat. And all those angel eyes with their red-backed eyes wanna see me fall off my face. And no despise everything about this place. Let me out, oh, let me out, cause I'm getting through. Oh, get me out, oh, get me out of this scumbag city. Nel 2013 uscì un album che impressionò vivamente tutti coloro che amano il rock blues, fra cui chi vi sta parlando, e l'album si chiamava Snapshot ed era l'album d'esordio di quattro giovanissimi, avevano 17-18 anni, forse non in tutto, che venivano da Cavan, in Irlanda naturalmente, si chiamavano Stripes. Il successo fu talmente grande che li fagocitò in pratica, e dopo un paio di altri album si sciolsero e svanirono praticamente nel nulla. Nel frattempo però ebbero il tempo, appunto, di pubblicare, anzi è uscito postumo a dire il vero, un album che si chiama Live in Tokyo 2015, e che è stato registrato al Club 4 di Shibuya, uno dei tanti agglomerati urbani che formano l'immenso Tokyo, il 16 di luglio del 2015. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Scumbag City Blues, loro si chiamavano Stripes. Un po' più tranquilli questi che ci andiamo ad ascoltare adesso, un trio che arriva da Dublino, è stato attivo dal 1996 al 2006, ha fatto solamente due album, poi col terzo album ci furono dei problemi anche con la casa discografica, insomma alla fine il terzo album non è mai uscito, e però è uscito questo promo che ci andiamo ad ascoltare adesso. Sono solamente tre pezzi registrati al Palladium di Colonia in Germania, chiaramente il 14 dicembre del 2002, quindi siamo quasi in territorio Record Today. Il brano che ho scelto per voi si chiama Brothers Sleeps, loro invece si chiamano JJ72. White as a ghost. In this space you can see your own breath. This room is as cold as a toast. Is it the sleep that is the brother of death? This cloth is green as an orchard where the salt can coat the trees. This girl cries tears as of torture. Is this girl the queen of the sea? Saying come on out and meet. most comfortable place. You've been looking into a room full of strangers, but now you recognize one face. It's a reflection in the water. It's a word that's in the streets, saying I'm here with you now, listen. Open up and you will meet your soul. This is it, I love you so. This is it, and they're talking at you, not with you. And you're bored with what's around, and you tried all the quacks, all the doctors, and all you really need is a healing sound. Well, listen, listen to the water, find the answer in the streets, because now it's time. Yeah. una delle mie band preferite, si chiamano Old House Flowers, vengono da Dublino e sono attivi dal 1985 fino ai nostri giorni, anche se in certi momenti scompaiono dalla scena musicale mondiale. Loro all'inizio della carriera sono stati molto aiutati dagli U2, anzi hanno inciso i primi singoli per la Mothers, che era la casa discografica proprio degli U2. Oggi hanno un basso profilo, suonano, fanno pochi concerti, quei pochi che fanno sono principalmente in Irlanda e parzialmente in Gran Bretagna, però hanno fatto un sacco di pezzi molto belli, tipo questo che ci siamo ascoltati, che si chiama Your Soul. Loro hanno fatto due album live e un sacco di singoli con canzoni dal vivo. Questo è il primo album live, si chiama semplicemente Live, molto originale. È stato registrato al National Stadium di Dublino, in casa appunto, il 17 di ottobre del 1998. Il brano, l'ho già detto, si chiama Your Soul, loro invece erano Hot House Flowers. A concludere questa piccola rassegna di bands irlandesi, ce ne sono veramente centinaia, per cui potremmo stare qua fino a domani mattina. Arrivano, dicevo, a concludere i Fountainhead con un 12 pollici che è stato registrato al Whiskey a Go-Go di Hollywood, Los Angeles, California, il 9 dicembre 1986. Il resto ve lo dice il loro MC, che è sicuramente molto meglio di me. Vi dirò che solamente che il pezzo invece si chiama Sometimes. Loro, lo ripeto, sono Fountainhead, ma lo dirà anche lui. Ok, good evening Los Angeles, welcome. I'll introduce you now, the first American tour, ladies and gentlemen, please put your hands together for Fountainhead. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi. Non è un album questa volta, è un extended play, solamente 5 canzoni, ma la prossima settimana invece avremo un quadruplo CD, quindi cercherò di rimediare a questa pochezza di oggi, anche se poi i brani che ci ascoltiamo dalla novità sono sempre 2, al massimo 3. Questo era Trying to Throw Your Arms Around the World, U2 dal vivo all'RDS Arena di Dublino il 28 agosto del 1993. L'extended play che ci stiamo ascoltando si chiama Zoo TV Live in Dublin, appunto 1993 EP, ed è appunto consta di solamente 5 brani. Ancora una volta dirò perché non tutto il concerto. Nella seconda parte, come sempre, arriva anche Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. 4 dicembre, tantissime cose, è inutile che ve lo ricordi. Il criterio di scelta è ancora una volta quello di un brano per ogni decade. Ci sono 7 decadi quest'oggi, non credo che riuscirò a farle tutte, ma intanto partiamo dal 1965, ho detto 65. Is that what it is? Un colosso della musica jazz, si chiamava Ornette Randolph Denard Coleman, per gli amici solo Ornette Coleman. Suonava il sax, il violino e la tromba, veniva da Fort Worth nel Texas, la città di Janis Joplin, fra virgolette. È stato attivo dagli anni 40 fino al 2015, che è l'anno della sua morte, per cui forzatamente. Ha fatto centinaia di album in studio, fra studio, live, collaborazioni, veramente tante tante tante. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un dischetto che si chiama At the Golden Circle Stockholm, che è stato pubblicato in 2 volumi. Questo è il volume 1, che è stato registrato il 14 dicembre del 1965, appunto nella città svedese. Il brano che ho scelto per voi si chiama European Echoes, lui è Mr. Ornette Coleman dal 1965. Thank you. In realtà quest'album è attribuito all'Ornette Coleman Trio e infatti tre musicisti sono immortalati sulla copertina in mezzo a tanta tanta neve, infatti sono a Stoccolma dove è stato registrato questo Live the Golden Circle, ripeto, due volumi usciti in tempi diversi. Questo è il primo e ci siamo ascoltati gli Echi Europei, European Echoes, era il 4 dicembre del 1965. Gli anni 70 sono rappresentati da un personaggio che appartiene a quella categoria di musicisti e artisti che hanno fatto la storia della musica britannica, anche se nessuno lo sa. In realtà sto parlando di Stevie Legge, grande chitarrista. Lui arrivava dall'Essex, dopo una serie di bands giovanili è entrato nei Gong, band psichedelica ai massimi livelli, del quale un giorno parleremo a lungo. E poi ha partecipato a tantissime altre bands anche come produttore. Fra l'altro è stato il chitarrista nella prima versione suonata live di Tubular Bells di Mike Oldfield, che certamente spero conosciate. Ha suonato, come dicevo, con tanti altri, fra Hawkwind, Osric Tentacles. E questo album che ci andiamo ad ascoltare fa parte della serie BBC Radio One Live in Concert. È stato registrato per la maggior parte nell'aprile del 79, ma due tracce sono state registrate al Paris Theatre di Londra il 4 dicembre del 1976. Una delle due è forse il suo brano più famoso, si chiama The Salmon Song, la canzone del salmone, da parte di Steve Hillage. Thank you. La canzone del salmone, The Salmon Song, era Steve Village, registrato al Paris Theatre di Londra il 4 dicembre del 1976. Molto velocemente, non starò a perdere tempo, fra virgolette naturalmente, per introdurre Peter Gabriel. Tutti lo conosciamo e credo che tutti lo amiamo. Dirò solamente che il suo primo album dal vivo, che si chiama Plays Live, è stato registrato al Memorial Hall di Kansas City, in Kansas, negli Stati Uniti naturalmente, il 4 dicembre del 1982. Forzatamente ho dovuto scegliere il brano più corto, si chiama I Don't Remember, Peter Gabriel dal 1982. I don't remember. Ooh. Nella trasmissione scorsa la prima parte è stata dedicata ai King Crimson e alle bands che sono state formate dai vari musicisti che si sono avvicendati nella line-up della band capitanata da Robert Fripp, ma non c'era questa. Loro si chiamano Bruford Levin Upper Extremities. Quindi avrete già capito che si tratta di una delle migliori sezioni ritmiche che sono state nei King Crimson: Bill Bruford, grande batterista, e Tony Levin, superbo bassista e suonatore di stick bass, che è una cosa molto molto particolare. Insieme a David Thorne alla chitarra e a Chris Botti alla tromba, hanno formato appunto questi Bruford Levin Upper Extremities, che hanno pubblicato un album dal vivo, non sono durati molto, dal 98 al 2000, e hanno pubblicato questo Blue Nights, che, come dice la S del plurale inglese, è stato registrato in diverse occasioni in diverse località. Il brano che ci siamo ascoltati è stato registrato al Bottom Line di New York City il 4 dicembre del 1998 e si chiama Cerulean Sea, il mare ceruleo. Andiamo con una cosa un po' più, fra virgolette, normale. Lei si chiama Regina Ilinichna Spektor, suona il piano e canta, è nata a Mosca, da una famiglia ebrea che però in giovane età di Regina Spektor è emigrata negli Stati Uniti, credo avesse 9 anni o qualcosa del genere, e da lì è partita la sua carriera, ha avuto un grande successo. Questo brano che ci andiamo ad ascoltare fa parte di un album che si chiama Live in London, registrato al Hammersmith Odeon di Londra, che in quel periodo si chiamava Apollo, HMV Hammersmith Apollo, il 4 dicembre del 2009. Il pezzo che ho scelto per voi ha un titolo in francese, che è, quindi è un challenge per me, si chiama Après Moi. Lei è Regina Spektor, appunto, il 4 dicembre del 2009. Горит. out your legs. Be afraid of the old, they'll inherit your souls. Be afraid of the cold, they'll inherit your blood. Après moi le déluge, after me comes the flood. I must go on standing, they can't break that which isn't yours. I must go on standing, I'm not my own, it's not my choice. I must go on standing, down again, can't break that which isn't yours. Anche se il titolo è in francese, Après moi, direi che molte frasi erano in russo, ma visto che Regina Spektor è nata a Mosca, è abbastanza normale. Il brano che ci siamo ascoltati, appunto Après moi, registrato a Londra il 4 dicembre del 2009, fa parte di questo album che semplicemente si chiama Live in London. Siamo arrivati alla fine praticamente e come dicevo l'ultima cosa del 2022 non ci sta, perché fra l'altro dura 8 minuti, quindi proprio spalerei di brutto, e andiamo quindi a concludere con una band che si chiama Deacon Blue. Prima però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fusico Live Club, un paio di ore di musica live ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 all'incirca, e che vi fa ascoltare musica registrata dal vivo, musica rigorosamente ufficiale di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. Dicevo Deacon Blue, la band viene da Glasgow e a Glasgow è stato registrato questo doppio dischetto che si chiama Live the Glasgow Barrowlands. Loro sono una band caratterizzata dalla doppia voce maschile e femminile, hanno un grande successo in Gran Bretagna e soprattutto in Scozia, come avete capito, la loro città, la loro regione di provenienza, la loro nazione di provenienza per meglio dire, e hanno fatto parecchi album dal vivo. Questo appunto è stato registrato il 4 dicembre del 2016, il brano che ho scelto per voi si chiama Twist and Shout, l'appuntamento è per mercoledì prossimo, vi lascio in compagnia dei Deacon Blue, ciao a tutti da Nevio. Sipping down rock and reading middle. our keys. I'm thinking about home and all that that means, and a place in the winter for a day.